Buon schema, l'ho aperta e mi sta dando, pulitti mi sta dando dai 10 ai 15 watt modulati. Allora forse avevano cambiato i finali, magari qualcosa del genere. No, questo è tutto originale. Ho solo aumentato il coso, il VR13, ho solo aumentato. Che poi era quasi tutto a massimo era. E però l'ho tirato su un altro pochettino, finché non è arrivata a fine corsa, e l'ho lasciato. E adesso sta andando ancora più bene la modulazione, sta andando. Ah, sì, forse ho capito, avevo visto un video che mi hanno mandato, mi sa che me l'aveva mandato Giulio, perché aveva sentito che avevo questa radio, che dovevo mettere a posto, eccetera, quindi era uno di Lucca, mi sa, in Toscana, che ha messo su YouTube, eccetera, e questo praticamente conosceva bene la radio e sicuramente era un tecnico, perché aveva tutta la strumentazione, sonda, eccetera, e questa radio era fuori frequenza, quindi gli ha fatto la centratura della frequenza, un Galaxy Saturn Echo, come quello tuo e quello che ho io, e praticamente poi gli ha portato su anche la potenza, regolando sicuramente quella roba che mi hai detto tu, il V, non mi ricordo com'è, e anziché uscire con i soliti 8 watt usciva con una quindicina, però era praticamente tutto originale, che l'avevano un po' pasticciato dentro, quindi era fuori frequenza e aveva meno watt, capito? Capo. Sì, no, a me mi ha mandato, la verità mi ha mandato uno schema, Massimiliano mi ha mandato, e mi ha detto, guarda, devi toccare questi tre, devi toccare la modulazione, la radio, e porti la modulazione al massimo, poi porti quell'altro, lo dice, a tre quarti, e poi VR13, la potenza, la puoi mettere anche tutta al massimo. Ho fatto come ha detto lui, ho fatto, guarda, sta uscendo una cannonata, eppure sto pompando, Capito, tu pensa che chi deve mettere a posto quella radio è un amico di Massimiliano, a me il suo, diciamo, contatto me l'ha dato Massimiliano, quindi immagino che Massimiliano ti abbia dato le giuste indicazioni. Sì, ma non so chi è quello che devi andare tu, Albino si chiama, già lo so chi è, gli avevo mandato una radio io tanti anni, qualche anno fa, no? Capito, te l'aveva messa a posto, Fra? No, niente, me l'ha tornato indietro, era il Galaxy Saturn Turbo, il turbo di questo uguale a questo, però era il turbo quello là, con 100 watt, ed era troppo, non ce l'ha fatta a metterlo a posto, non è che non ce l'ha fatta, non si trovavano più i pezzi. Ho capito, ma il turbo era una versione precedente a quello che è adesso oppure era uscita dopo? Ah, più o meno sono usciti insieme, avevano fatto questo e il turbo. Forse magari il turbo era troppo spinto e magari l'ha mandato in tilt completamente. No, sai cos'è, chi me l'ha dato, non me l'ha fatto pagare la... me l'aveva regalato, me l'aveva, però me l'ha regalato perché tanto non c'era niente da fare, ci hanno messo il cacciavite dentro e hanno spaccato tutti i trimmer. E quindi avranno mandato in corto tutto quello che c'era, e quando è così poi, se non è andato in corto, comunque i trimmer nuovi, e insomma un casino, quindi è per quello. No, questa che ho io di radio spero che si possa mettere a posto, capito? E non credo che abbiano pasticciato più di tanto, forse c'è, i due finali sono originali, ma qualcuno mi ha detto che forse c'è il pre-finale che non è originale e che non va bene, perché sono quelli di fabbricazione cinese che dice non sono compatibili e ci vuole un prefinale originale invece. Penso che tentare non nuoce a portargliela, capito? Sì, ma tentare non nuoce, non è mica lontano da qua, non è. E poi ti dico una cosa, quella radio, a meno che non gli ha messo le mani addosso qualcuno dopo che l'ha data lui a vedere, ma se no lui non, non ce le mette le mani, perché è un tipo pignolo e non le mette le mani dentro. Se deve fargli qualche lavoretto, gli dicono di aprire un trimmer o una cosa del genere, lui non lo fa, se lo fa fare da chi lo sa fare. Sì, no, penso che già sia abbastanza in ordine, capito? Sì, domani lo devo chiamare, perché siamo rimasti d'accordo così, che l'avrei chiamato sabato e poi eventualmente anche domenica glielo posso portare. Poi vedo se lui è disponibile anche domani, ci faccio un salto, non è che ci vuole molto, ma andare a portargli. Capo. Magari è una cavolata e riesce a mettertela a posto, capito? È una bella radio, è una bellissima radio, io la sto usando, l'ho usata negli anni che furono, io avevo comprato nuovo il Galaxy Saturno Turbo tanti anni fa, poi me l'avevo venduto, e conosco bene queste radio. Caspita, io il Turbo l'avevo pagato allora, 1,5 milioni l'avevo pagato, ma sto parlando di anni fa. Ho capito. Mi sa che forse quello di Claudio Sparviero è un turbo, il Galaxy Turbo, lui forse ha, infatti esce con un bel po' di watt. No, lui c'ha, è uguale a questo, uguale al mio e al tuo, e dentro gli ha messo un 747, gli ha fatto mettere, un lineare, capito? E poi lui lo aggancia, lo accende con la levetta che c'è dell'eco. Ah, ho capito, quindi una modifica del genere, sì. E infatti pensavo fosse un turbo, perché so che usciva con quei watt lì e quindi pensavo fosse uno di quelli. Ho capito, sì, no, bella è bella la radio, è un po', diciamo, un modello ingombrante, diciamo radio di altri tempi, però va bene, esteticamente non è male, poi già è bellina, a me piace. Sì, ma anche a me è sempre piaciuta. So che, sai cos'è, Carlo, io l'avrei avuta prima di oggi, questa, subito l'avrei avuta, al posto di prendermi un capo mi avrei preso uno di questi, mi avrei preso, però quando tu compri da internet, da fuori, ti mandano un'ondessa, non mi fido, non posso pagare una radio, e poi ai prezzi che la stanno vendendo, 200, 250, 300 euro, c'è qualcuno 350, ma stiamo scherzando, non le pago a quel prezzo di quelle lì. Hai ragione, così è troppo, e poi non sai, non hai neanche la garanzia, non è che la stai comprando nuova, capito? Sono sempre radio dove ci hanno messo mano un sacco di persone, magari, ed è un rischio quello, è un rischio. È un rischio, sì. Guarda, io ho comprato da internet, ho comprato il 706, non so se tu lo conosci, il 706, è un HF 3 band, che fa tutta la HF, fa la 27, fa tutto, e anche VHF. L'ho comprato, ho pagato 350 euro, l'ho pagato. È arrivato qua e non funzionava. Si spegneva da solo. L'ho dovuto rispedire e farmelo aggiustare. E ci ho messo altri 120 euro, ci ho messo sopra. E ho detto, ma basta, non compro più niente da internet. Sì, con l'usato ci sono quei rischi, a meno che non compri roba nuova, allora ti arriva con garanzia, con tutto, allora a quel punto sì, però le cose usate la gente se le fa fuori perché magari non sono perfette, capito? E molte volte succede quello. Io lo stesso tanti anni fa avevo preso un ricevitore della Icom, sembrava tutto a posto questo ricevitore, poi vado a usarlo e riceveva la metà di quello che avrebbe dovuto ricevere. Alla fine ho preso, ho detto, come l'hanno venduto a me, me lo rivendo, l'ho messo su internet, e io l'ho venduto così com'era, descrivendo che a mia volta l'avevo acquistato, l'ho provato, funziona, è perfetto, c'è tutto. Lo vendo, poi dopo un po' mi chiama il tipo e mi fa, ma sai, quella radio dal numero seriale, praticamente io ho scoperto, ho chiamato il centro assistenza, che questa radio era entrata in assistenza, guarda, così a me me l'hanno venduta, io l'ho tenuta pochi mesi, poi non la usavo, me la sto rivendendo, così come l'ho ricevuta te la sto rivendendo, per cui non c'è nessuna garanzia, io non ti posso fare niente. niente, ormai c'era scritto non, all'avevo scritto che non si cambiava, quindi questa se l'è tenuta, però penso che se l'abbia fatta rimettere a posto, capito? Io non ci ho perso niente, capito? Come l'ho acquistata, allo stesso prezzo l'ho venduta, però hai ragione tu, puoi prendere un sacco di fregature. Capo. Ma è così, No, io c'ho un ricevitore, infatti quello lì se capita me lo vendo, perché aspetta vedere, come si chiama? L'unident, un ricevitore fa anche la 27, fa tutto. Mi sembra UHF. C'è la Natalino, ce l'ha uguale identico, ce l'ha, e ce l'ho nuovo dentro la scatola, ce l'ho, ma mi sa che me lo vedo perché non mi piace assai. Sono quelli della Unidem, quelli americani, mi sa. Sì, quelli. Che modello è, Fra? Allora, non abbiamo neanche il numero, se no te l'ho prima andato. Lascia vedere. Ecco qua. È tutto dentro la scatola, perché l'ho messo dentro la scatola, perché non è che me ne frega. Bande aeree, c'ha tutto, c'ha marine, un bel di roba c'ha. Allora, Unident modello UBC 35 355 CLT. Perché lo cerco? Ma che ha i piedini rossi? Sì, c'ha i piedini, c'ha i piedini, è tipo come a base, di base. Ho capito, c'ha il tasto volume, lo sto guardando su come si dice, di Amazon, cioè l'ho messo sulla ricerca di Google, il modello, questo qua, modello che mi hai dato tu, praticamente ha diciamo un supporto da tenere sotto, tipo base, sì, li conosco, non sono male come ricevitori quelli, sono ottimi ricevitori, e niente, quindi questo lo vuoi dare via? Sì, quello se mi capita lo do via, non faccio niente, perché tutto quello che ascolto lì ce lo ascolto nella 706, lo ascolto, non tutto, ma quasi. Provo a chiedere, perché c'era una persona che conosco che era interessata a un ricevitore del genere, capito? Già lo vedo domani a lavoro, che lavoriamo insieme, e provo a chiederglielo, capito? Se è interessato già glielo faccio vedere che modello è, e così vediamo un po', poi ti faccio sapere. Ehi, capo, se gli interessa, a me, io ho 70 euro, io non me ne frega niente. Già va bene, sì, ha voglia. Sì. Vedo un po', dai, poi ti faccio sapere, già ci sentiamo qua su queste frequenze comunque, tanto io quando sono a casa di sera sono sempre qua, a volte entro anche di mattina, quando c'è il pomeriggio magari a fare quattro chiacchiere, così quella mezz'oretta, ogni tanto attacco. Capo. L'unica cosa che manca è l'antenna che non c'è. È stata smarrita, non so dove cavolo l'ho messa. Ma l'antenna era di quelle antennine, già la sto vedendo, tipo quelle che si usavano una volta nelle vecchie radio, di quelle tipo stilo, no? Che tiri su. Di quelle telescopiche, esatto, di quelle lì erano. Però non mi ricordo dove cavolo l'ho messa. Arrivo da qua. La colazione che l'hai mangiata. Ancora in giro, sì. Sì, ha messo tutto a posto la camera, hai capito? La sto sistemando bene, come dire, perché faceva schifo, capito, prima. Sembrava non una camera per baracchino, un troiaio, hai capito? Tutto in mezzo ai piedi, cosa del genere, adesso la sto sistemando, mi. Ho messo due mobili, per metterci gli apparecchi, in modo da riempire bene tutto quanto, dopo di che esco la roba da buttare, la butto, il resto me lo tengo. Cosa ti hanno sfrattato? No, cosa per sfrattato? Già sono a casa mia, non mi sfratta nessuno a me, lo sai. Avanti Carlo. Poi c'è Antonè, noi mi facendo quattro chiacchiere in notturna. Già l'ho visto, io sto appena rientrando, me l'ha detto. Ero giù da Giovanna, la mia sorella, e sto appena rientrando. Sto sistemandomi la camera, mi sono fatto un mobile per un po' di apparecchi, l'altro mobile per il resto, se no è un casino. Adesso poi, dopodiché, mi metto il tavolino per fare i palazzi dall'altra parte e sono a posto. E se no era un casino, cioè, vabbè, tu a casa già non sei venuto. Ma Claudio è venuto e mi ha detto, mamma mia Antonetta, da quella roba mi metto in piedi, uno schifo, mi ha detto. Allora mi sono sistemato bene, almeno sono più tranquillo. Un po' di ordine ci vuole Antonè, se no davvero poi ce ne da impazzire. No, io sono abbastanza ordinato per quello, non sto lì a tenere tutto in giro, capito? Utilizzo solo quello che sto utilizzando al momento e tutto il resto lo metto via, perché è tanto inutile mettere in giro 100 cose quando ne usi una, capito? E appunto per quello, è quello che sto facendo infatti. Sto facendo due sezioni di mobile per poter piazzare gli apparecchi, una fianco all'altra, perché tutti non ci stanno mentre il mobiletto, capito? Allora ho messo due mobili, almeno è una cosa ben fatta. Adesso ogni mattina sistemo l'alimentatore, quello grande per il tempo, e dopodiché la roba la buttare ce la butto, se no oggi ci ho buttato i 14 vittori di quelli satellitari, però non ne facevo niente, se la giuro infatti. Facendo pulizia, almeno non mi tengo la schifezza, capito? Un resto dei cavetti, per dire, per cavi scarti, cose del genere, quelli me li tengo, perché a volte magari qualcuno ne ha bisogno, non ce li ha, allora ce l'ho io, hai capito? Cavetti di tutti i tipi, scarpe con la tacca RCA, scarpe normali, cavo scarto da 4-5 metri per poter agganciare il televisore, cioè, e quindi cioè, la metterò nel settimino, si chiama, di quei mobili scompatti, ce l'hai presente. E quindi sto facendo tutto quanto così la stasera, lavato in terra, è perfetto adesso. Manca solo l'altra metà e sono a posto. Ma Franco, ci sei ancora? Sì che ci sono, stavo per prendervi tu. Cappa, va bene, allora sei a rapazzare stanotte. Va bene, va bene, va bene, va bene. Almeno la tieni pulita la stanza e ci puoi far giocare il cagnolino. Già gioca da solo la mattina. Viene a svegliarmi alle 7:30 del mattino. Mi lecca dove le coperte. Quello perché vuole uscire, mi stai dicendo, io pesadini. Già l'ho fatto una mattina così, alle 6:30 del mattino. No, aspetta alle 9, 9:15, scendo giù da Sonia, si piglia il caffè Simona, lo scendo giù, faccio fare la pipì, Simona si piglia il caffè e poi si va a casa. Caffè, va bene, va bene. Ok, dai ragazzi, io vi lascio, caspita, le 23:18. Ci sentiamo, non è che devo andare a lavorare domani, però mi alzo sempre presto. Riprendi casa. Allora, buona carica Fra, già ce la risentiamo. E io lo stesso mi faccio qualche altro passaggio con Antonello e poi per me si è fatta tardi, lo stesso. Sono rientrato da lavorare, come vedi ho cenato veloce e sono qua, non mi sono tolto neanche le scarpe da lavoro. E oggi ero, diciamo, di pattugliamento in giro per la perimetrale, quindi ho le scarpe grosse, adesso mi alleggerisco anche io. Perché non vi cambiate là? No, no, io non mi cambio mai là, non abbiamo neanche lo spazio. Solitamente noi, quando facciamo i servizi esterni, sia a Varco Carraio Doganale oppure che siamo di pattugliamento, usiamo la tuta mimetica blu, capito? E invece poi quando siamo dentro in aerostazione, allora lì abbiamo l'abito, giacca, cravatta, capito? Là siamo più ordinati, ma quando siamo ai servizi esterni siamo più trasandati, capito? Capito. No, pensavo che avevate uno spogliatoio che dove cambiate gli abiti quando si entra e quando si esce. Va bene. Oh, ciao, buonanotte e ci sentiamo. Ciao Antonello e ciao Carlo. Via, ciao Fa, ci sentiamo. Buonanotte con tutto. Alle prossime. Ah, buonanotte Franco, ciao. Beh Antone, quindi stai mettendo in ordine e già fai bene, dai. Così almeno quando ci metti in mano trovi le cose subito. È un casino prima, lui stava in casa a cercare le cose una parte all'altra, poi c'era poco spazio, almeno così c'ho le apparecchi capito davanti, se mi serve qualcosa. Però, quindi, vabbè, adesso è diventato già ne ho tre, quindi, a un certo punto adesso ho messo tutti e tre e faccio il stoccaggio. Uno da una parte, uno dall'altra, è diventato di grosso, uno separato dall'altra, almeno ne ho tre e sono a posto. Poi adesso dopo mi metto un 3x40, lo tolgo dalla scatola, ce lo metto nel mobile, così almeno è vedi. Ci vede anche quello. Quando mi serve l'antenna, piazzo la piccolina, la cerò e la uso per il coso. E già va bene. Va bene Antone, anche io mi sa che mi ritiro. Ce la risentiamo domani, dai, se ci sei domattina volentieri, facciamo quattro chiacchiere o domani sera. Io praticamente domani lavoro di notte, però entro alle 21, uscirò di casa intorno alle 8, 3, 10, non più tardi di sera. Quindi ho tutta la giornata che sono libero, mille cose da fare, ma io mi porto tutto giù in garage, le cose che non utilizzo, ho due banchi, ho un banco da lavoro e l'altro il banco dove metto le cose elettroniche, cavetti, c'ho i cassettini dove c'ho tutti i spinotti, PL, eccetera, di tutto e di più, ci butto tutto lì, microfoni, eccetera. Quando mi servono scendo, li prendo e me li piazzo qua. Qua adesso se riesco a aggiustare quella radio lì, mi organizzo e mi faccio un ripiano e così me la sistemo, però mi devo mettere un deviatore, capito, d'antenna, in maniera tale che così posso andare su una radio e sull'altra, capito? Sì, già ho capito. Già si può fare un deviatore d'antenna, ma che non si possa fare, basta avere due pulsanti, 3 PL e ti fai il deviatore d'antenna tu stesso, non è che ci vuole questa garanzia a farlo. 2 PL femmina, è fatta la cosa, ci vuole, è una cazzata costruita. Prima, fai prima, guarda, lo prendi già pronto e quello già è semplice, me la organizzo, prima metto a posto quella radio là e poi vedo un po' se riesco in breve tempo a sistemarmi tutto. Quando vuoi scendere per quella radio là, andiamo assieme, così ti faccio compagnia e gliela portiamo e tu la fai sistemare bene. Devo chiamare domani, Antone. Domani lo chiamo e poi ti faccio sapere, perché se lui mi dice portamela domani, se ci dobbiamo andare di sera, se sei disponibile mi fai compagnia e ci facciamo un salto, capito? E se no lui mi ha detto male che vada ci possiamo fare dice gliela posso portare domenica. Il problema è che io domenica smonto la mattina alle 5, a meno che non sia tarda mattinata oppure domenica dopo pranzo, e allora ci andiamo domenica se tu sei libero. Sì, io voglio che sono libero. Chiama quando vuoi, non c'è problema, già sono qua. Mi fai se non sono a baracchino, chiamami al telefono, sono qua perché sto facendo la roba, capito, qua a casa, quindi non c'è nessun problema. Già ti faccio compagnia, quello non è un problema per quello lì, grazie a Dio. Hai capito? va bene, già va bene, al limite lì. Se deve andare di là, mi pote con il 4005, mi metto l'attacco a accendere i sigari e gli attacchi di antenna dell'apparecchio, tutto così, quando siamo arrivati lì vicino lo chiamiamo, così mi guarda con 15 watt a voglia che ci sente. Sì, va bene, va bene. D'accordo, allora io tanto domani mattina lo chiamo e vediamo cosa mi dice e poi ti faccio sapere o se ci sei in radio, se no già ti faccio uno squillo al cellulare. Dai, ce la risentiamo domani, Antone. Buona ricarica anche a te, alle prossimine. Ho mangiato la roba, adesso mi sono fatto un tosto con quella roba che mi era tutto dentro al forzetto e adesso mi piglio appena appena di quella roba rossa e così digerisco e me ne vado a letto. Via, buonanotte, a domani, Antone, ce la risentiamo, ciao, buonanotte. E io, ciao, domani, buonanotte.